Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Giro del mondo in 4 giorni. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel primo dei nostri approfondimenti parleremo delle ultime tendenze in fatto di viaggi e vacanze. Scopriremo in anteprima la vetrina della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 16 al 19 febbraio a Fiera Milano Ro. Radio 24, ve lo segnalo fin d'ora, è la radio ufficiale. Venite a trovarci al padiglione 3, stand B11 C14. Vi racconteremo poi uno dei fenomeni emergenti nel settore del turismo, le community che propongono sistemazioni alternative agli hotel. Focus sui trend dedicato infine ai consumi sociali, quando i consumi fanno del bene e fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Testimonia la vita, un tatuaggio in cambio dello sconto. Fa discutere l'iniziativa lanciata da Ichco, catena di abbigliamento americana, che offre uno sconto permanente del 20% a chi si fa tatuare il logo del brand sul corpo. L'Italia è un paese in vendita. È l'allarme che lancia la società di consulenza Panbianco. Di questo passo rischiamo di perdere gran parte del patrimonio italiano nei settori della moda e del lusso. Nella lista di aziende italiane finite in mani straniere nel 2011 figurano Bulgari, Brioni, Mandarina Duck, Coccinelle, Allegri, Belstaff, Gianfranco Ferré e Ferretti Yacht. In vendita anche l'inglese Dr. Martens, il leggendario marchio di stivali adottati da punk, skinhead e generazioni di teenager di tutto il mondo. Pensati per operai, bobbies e postini, i Dr. Martens sono diventati un'icona della musica quando vennero indossati da band come Clash, Who e Sex Pistols. Zucchine a 7 euro per il freddo? Lasciatele sul banco. È la raccomandazione dell'ADUC, che ricorda gli analoghi aumenti a causa delle ghiacciate negli anni scorsi. Si scoprì poi che l'ortaggio proveniva dall'Egitto. Più di 4 italiani su 10 hanno iniziato ad acquistare tagli alternativi di carne, meno conosciuti e più economici, per risparmiare o per creare nuove ricette. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Coldiretti per verificare gli effetti della crisi sui consumi di carne. La borsa della spesa. Sei uno che va sui trampoli. Sui trampoli? Sei un trampoliere. È così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi. Figliolo, da quant'è che sei quassù? Da un paio di settimane. E prima di allora? Sono andato nel Sud Dakota, ho lavorato per un certo Wayne. Che te ne pare di tutto questo? Mi piace tutto questo. Poi ho disceso il fiume Colorado, giù per il Grand Canyon. Ho fatto le rapide. La N lì per cosa sta? Nord. La tua grande avventura in Alaska. Possano i viaggiatori trovare la felicità ovunque vadano e senza sforzo possano realizzare ciò che si sono prefissi. Nel paese in cui sto viaggiando, il Tibet, credono che percorrere a piedi lunghe distanze verso i luoghi sacri purifichi le cattive azioni commesse. Credono che più il viaggio è difficile, più la purificazione è profonda. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Quanti sono i film che raccontano storie di viaggio, storie che ispirano molte delle nostre partenze. Una delle tendenze del momento è il treno, che sta diventando uno dei mezzi più amati per i viaggiatori a caccia di nuove mete, magari attraverso la riscoperta delle vecchie linee dimenticate. La Transiberiana, l'Orient Express, il Palace on Wheels in India o il Tren a las Nubes in Sud America. Quali sono le novità del settore? Quali le mete, le tipologie di viaggio e gli stili di vacanza che appassionano i milioni di turisti nel mondo? Lo abbiamo chiesto a Marco Serioli, direttore Exhibitions di Fiera Milano SPA. Ci sono tante cose che stanno accadendo in questo settore. Diciamo che vanno forse un po' tutte sotto una definizione, che insomma il turista è sempre meno turista e sempre più viaggiatore, quindi da una parte viaggi più brevi, viaggi più frequenti, più distribuiti durante l'anno, dall'altra parte la vacanza che diventa sempre più esperienziale, quindi il viaggiatore quando poi arriva in agenzia per comprare il viaggio o si organizza è comunque un viaggiatore più preparato, più organizzato. Grazie a internet le informazioni, anche gli stimoli sono tanti e ormai anche gli italiani hanno imparato a usare molto bene questi strumenti. E poi, soprattutto nel 2012, credo che ci sarà un'attenzione molto forte a quello che noi chiamiamo il viaggio motivazionale. Per esempio a Londra ci saranno le Olimpiadi, sono attesi 500.000 visitatori che andranno a Londra specificatamente per le Olimpiadi, quindi sono visitatori aggiuntivi. Lo stesso succederà per gli europei di calcio in Polonia e in Ucraina. Da un'altra parte una piccola nicchia che però si vede e gli operatori ci segnalano, per esempio quella del turismo nuziale, cosiddetto nuziale, cioè andare a sposarsi in un posto strano, in un posto lontano da casa, su una spiaggia magari lontana, ed è una cosa che specie nelle cosiddette seconde nozze sta prendendo piede. Per quanto riguarda le mete emergenti si cita l'acronimo SLIM: Sri Lanka, Indonesia, Messico, Malesia, Argentina. Ci conferma che sono i nuovi mercati emergenti del turismo globale? Sì, ci sono sicuramente delle mete che da questo punto di vista hanno un'attenzione particolare da parte del nostro pubblico, oltre alle le classiche, diciamo, che stanno un po' tornando, come il Messico, come Sri Lanka, ma anche l'Est, il Vietnam, la Malesia. Sono paesi che si stanno proponendo con delle offerte, con delle attrattive particolari, cercando di andare insomma al di là del solito turismo, chiamiamolo così, legato al mare. Nonostante la crisi, il 2011 per l'Italia è stato un anno buono. Per quanto riguarda i turisti stranieri nel nostro paese si è registrato un più 5%. Ma diciamo che l'offerta è molto viva, molto vispa. Per fortuna l'Italia è fatta di tante piccole realtà, perché ci sono delle realtà anche piccole, anche diciamo locali, territoriali, che riescono comunque a proporsi in modo particolarmente vincente. Ne cito due su tutte: la zona del Lago di Como, che sta registrando incrementi nell'ordine del 40%, facendo leva ovviamente su una grandissima notorietà, ma facendo leva evidentemente anche su offerte innovative, e dall'altra parte per esempio la città di Torino, prendendo una città che nell'immaginario collettivo non è legata al turismo, invece sta avendo dei risultati negli ultimi 2-3 anni, risultati assolutamente eclatanti. Non possiamo parlare di turismo senza citare il fenomeno delle community di viaggiatori per le recensioni, lo scambio o l'affitto delle proprie case. In questi giorni fa notizia l'arrivo anche in Italia di Airbnb, il portale che consente di condividere e affittare alloggi in tutto il mondo. Nato nel 2008, 4 milioni di notti prenotate solo negli ultimi 12 mesi, Airbnb conta più di 100.000 proprietà disponibili in 19.000 città, 192 nazioni nel mondo. Ne abbiamo parlato con Andrea Lamesa, country manager di Airbnb Italia. Sostanzialmente Airbnb permette a chiunque di affittare casa propria, mettendola gratuitamente sul sito, in modo che viaggiatori da tutte le parti del mondo possano prenotarla e soggiornare lì. La particolarità di Airbnb è che sono presenti ogni tipologia di case, quindi da una singola stanza in una casa, ad un'intera casa, ad un castello, una casa sull'albero o addirittura un igloo. È possibile trovare qualunque tipo di sistemazione in ogni città del mondo. Soprattutto in questo momento di difficoltà economica, Airbnb permette a chiunque di mettere a reddito, diciamo, degli spazi extra che può avere in casa e affittarli per alcuni giorni o per alcune settimane e ottenere quindi un reddito in più. Essere e avere. Mi fa stare bene, mi fa stare bene, di stare bene, non mi stanco mai. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo dei consumi che fanno bene al mondo, sono i consumi sociali. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Dai charity shop ai supermercati comunitari, dai social network della solidarietà ai ristoranti per il reinserimento sociale fino al good design, il design che migliora la vita, e al cosiddetto cause-related marketing. L'etica, insomma, si fa sempre più spazio nel panorama dei consumi, rendendo virtuoso il business. Patrizia. Sì, parliamo di social business, cioè il business con obiettivi sociali. E la domanda è: ma si può fare il social business? Mohamed Yunus, economista indiano, Nobel per la pace, dice che sì, si può fare. Questo è anche il titolo del suo ultimo libro, in cui spiega come il business sociale possa creare un capitalismo più umano. Quindi nessuna negazione del libero mercato, ma arricchito di aspirazioni umanitarie. Il progetto più noto di Yunus è Grand Bank, un sistema di microcredito senza garanzie ormai attivo in tutto il mondo, utilizzato da milioni di persone, che gli è valso il noto epiteto di banchiere dei poveri. Ma sono altri i suoi progetti, riguardano l'accesso alla telefonia mobile, l'energia, la depurazione dell'acqua e anche il mondo dei consumi. Infatti aziende come Danone hanno collaborato al progetto Gramen con la distribuzione di yogurt potenziato con elementi nutrizionali per salvare i sottonutriti, e Adidas ha distribuito le sneaker da un euro. Sociale e anche social. In tempi di social network, grandi attivatori di energie che trovano poi nell'offline, nelle piazze, progetti politici e sociali da realizzare a livello locale. Dire social network socialmente utili implicitamente rischia di definire tutti gli altri inutili, ma serve per capirne l'obiettivo primario. È il caso di Task Turtle, americano, uno dei molti social network nati per procurare lavoro a persone in stato di povertà. Altri esempi sono Paper Flops in Indonesia e Touch in Sudafrica. Abbiamo anche due esempi italiani. Uno è Socialidarity, il lavoro nel sociale e le opportunità di cambiare vita. Questo è il payoff. È un network per la promozione del lavoro sociale con servizi di informazione, di orientamento professionale, di consulenza anche per privati e imprese, corsi e iniziative di formazione e di riconversione professionale, con opportunità quali agronomo nei territori occupati palestinesi, addetto stampa al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, eccetera. Il secondo è ShinyNote.com, definito il Facebook delle belle storie o anche il Facebook del volontariato. Questo social network ci invita a cambiare il mondo una storia alla volta. Sono storie belle, in cerca di sostegno, abbracciabili, cioè finanziabili naturalmente con la modalità crowdfunding, cioè ognuno mette una cifra, in tempo reale si vede a quanto ammonta la raccolta collettiva rispetto all'ammontare che serve. Si va dall'equipaggiare un'ambulanza alla costruzione di una scuola in Perù. Dicono i fondatori, due italiani, Roberto Basso e Fabrizio Trentin: abbiamo immaginato una rete sociale fondata su basi etiche, e nel panorama di crisi, di crisi del lavoro, di difficoltà di accesso al credito, aiutare gli imprenditori sociali, soprattutto le start-up dei giovani, a costruire la loro società è un'attività a tutti gli effetti socialmente utile. Da segnalare i molti incubatori di matrice sociale e in particolare Make a Cube, sottotitolo Buone idee elevate a imprese, il primo incubatore in Italia promosso da Avanzi, specializzato nel lancio, rilancio, sostegno di imprese ad alto valore sociale e ambientale, cioè quelle imprese che fanno della sostenibilità ambientale e sociale il loro asset strategico di business. E a Milano, nell'area dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, è attiva da tempo Olinda, un'impresa sociale che in quegli spazi gestisce un ristorante, un teatro, un ostello, un orto, luoghi di reinserimento sociale attraverso il lavoro di persone con disagio psichico. È la stessa filosofia che ha ispirato il ristorante di Settimo Torinese, un locale dove la cucina fa bene soprattutto a chi ci lavora. Ecco che cosa ci hanno raccontato. Prima non uscivo da casa, adesso invece sto meglio perché ho questa cosa da fare, riesco a uscire, quindi sto con delle persone che mi aiutano e mi fanno fare meglio. Sono contento comunque anche solo di fare la passeggiata per arrivare al ristorante con la borsa, è bello. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Il commento di solito è non si direbbe mai, ma non c'erano i ragazzi, ma dove sono i pazienti, perché c'è ancora comunque molto retaggio culturale rispetto alla psichiatria e al paziente psichiatrico, mentre sono normalissime persone. Anzi, è successo che sabato sera, per esempio, c'erano due operatori in turno e una borsa lavoro, e un tavolo ha chiamato la borsa lavoro convinta che fosse l'operatore e ha fatto tutte le domande alla borsa lavoro invece che a noi. E quando succede questo, per noi è un grande successo. Io sono come un pianoforte con un tasto. Una volta una ragazza mi ha detto, mi ha ringraziato perché mi ha detto: finalmente mi sento una persona normale. E ridare una dignità sociale alle persone. E questo quello, la grande sfida che vogliamo fare noi. Tutti gli incassi saranno devoluti a... Quante volte ci capita di leggere questa scritta sulle immagini di una campagna pubblicitaria? Si tratta di cause-related marketing, marketing collegato a una causa sociale. Si realizza attraverso la partnership tra un'azienda e un'organizzazione no profit per concretizzare un progetto di interesse sociale. Patrizia, una formula che in certi casi diventa addirittura un modello di business. Sì, nel caso di The People Supermarket, che è un caso molto interessante di Londra, tutti gli incassi vengono per esempio devoluti al supermercato stesso. È il primo al mondo gestito interamente da addetti proprietari vicino a Russell Square. Chi ci lavora, i membri sono ormai più di 1000 e dedicano un minimo di 4 ore al mese al supermercato. Chi ci lavora, dicevo, è anche imprenditore sociale, nonché consumatore con il 10% di sconto sulla spesa. Le parole chiave qui sono comunità locale, persone, qualità dei prodotti, che vuol dire biologici ma anche marche internazionali, etica del lavoro, proprietà condivisa e coesione tra comunità urbana e produttori. Dunque si può parlare di retail sociale, di grande distribuzione organizzata sociale, i cui profitti sono appunto reinvestiti interamente nell'impresa stessa. Nel supermercato spunta anche The People's Kitchen, la cucina del riciclo alimentare gestita da uno chef professionale che prepara appunto dei piatti take away per i clienti, con un'iniziativa interessante antispreco, cioè la cucina usa frutta, verdura e prodotti in scadenza che così non vengono sprecati, e si parla di decine di chili a settimana. Modello di business che funziona, il mercato risponde e The People Supermarket ha vinto non a caso il premio Local Retailer 2011 assegnato da Ethical Awards. Generosità, impegno, impatto diretto sulle comunità di riferimento sono appunto i valori che muovono questo tipo di imprese sociali. È il caso della catena di panetterie e caffetterie non profit Panera, diffusa sia in Canada che negli Stati Uniti, o anche la catena Caffè Gratitude, con iniziative all'insegna del Pay What You Can, quella formula per cui chi entra può consumare e pagare quanto può, una formula di charity a tutti gli effetti interessante che si fonda su un aiuto su misura, diciamo, un'offerta commisurata alla capacità di spesa che, se è totalmente azzerata, si trasforma evidentemente in caffè e cibo gratuiti. Nel caso di Panera non ci sono i prezzi esposti o i registratori di cassa, ma solo contenitori in cui mettere il denaro. A questo punto diventa una donazione e c'è anche il suggerimento di barattare un'ora di lavoro con il pasto o la consumazione. L'impatto sulla comunità può avere anche espressioni diverse, come la redistribuzione diretta degli utili. È il caso di Made, un caffè negozio di Los Angeles i cui proventi vanno interamente agli homeless, alle persone svantaggiate o a fondi di aiuto ambientale e sociale di vario tipo. Anche l'alta moda diventa solidale con i charity shop, negozi che vendono capi e oggetti usati e reinvestono gli utili in progetti di solidarietà. Vi si trovano naturalmente capi vintage e non, il più delle volte griffatissimi, donati dalle star o dalle case di moda a prezzi stracciati. Il primo fu aperto dalla Croce Rossa a Londra nel 1941 in Old Bond Street per aiutare la gente che aveva perso tutto sotto le bombe del Blitz nazista. Oggi sono circa 500, gestiti da grandi associazioni come Oxfam e Salvation Army. Il primo italiano ha aperto pochi mesi fa a Milano, è il Good Shop della ONG Coopi. Citavi il Good Design in apertura, tra i gesti socialmente significativi per migliorare il mondo ci sono quelli appunto che ispirano il cosiddetto Good Design, quello che fa bene al mondo, che è un design che mette l'accento su questo aspetto emancipativo del progetto e quindi sulla valenza socialmente positiva degli oggetti creati che tutto il design ha, ma il Good Design propone come caratteristica distintiva. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Oakland su consumi sociali e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia! Ciao, un saluto a tutti. Oggi parliamo dell'iniziativa lanciata lo scorso dicembre in questa città situata sulla costa est della Baia di San Francisco. Il nome del progetto è Pop-up Hood e nasce con l'obiettivo di offrire temporaneamente e a costo zero spazi commerciali a piccole imprese e start-up locali. L'idea scaturisce dall'esigenza di rivitalizzare la scena molto sofferente del retail cittadino. E il focus principale è quello di supportare la comunità locale su due livelli. Da una parte dare a piccoli imprenditori, artisti e designer la possibilità di aprire la propria attività installandosi gratuitamente per 6 mesi, e in questo sta il senso del pop-up, in spazi e negozi in disuso. E come diretta conseguenza assicurare alle persone e ai cittadini quartieri più vitali. In pratica Pop-up Hood si propone di diventare una sorta di incubatore di piccole realtà imprenditoriali e isolato dopo isolato ricostruire, proprio letteralmente ricucire la trama del tessuto urbano e sociale, incoraggiando rinnovamento e dinamismo economico-finanziario. Il progetto è partito dal centro antico e grazie all'attivazione di una rete di partnership e collaborazioni con le istituzioni e con professionisti, quali economisti, urbanisti e consulenti di marketing, sono state già avviate le prime realtà, tra cui un negozio di biciclette, una galleria d'arte e una gioielleria artigianale. Grazie Alessia. Patrizia, consumi sociali, tutti progetti concreti, lo abbiamo sentito, progetti che spesso passano anche dalla rete, dai social network. Non c'è il pericolo che qualcosa si perda in questa sorta di ondata buonista, chiamiamola così? Sì, un pericolo c'è. Se vogliamo fare del bene al mondo, renderlo un posto migliore, come si dice, e la sensibilità in questo momento è molto di tutti, è molto elevata, attenzione allo slacktivism, termine inglese che dice dell'attivismo da click, da sedia, di chi non fa, di quelli non attivi davvero, cioè degli attivisti dal consenso facile, quelli che fanno like sui molti social network che promuovono centinaia di cause al giorno, ma senza contribuire davvero. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.